se le guardi si rompono i due bambini, adesso quando devo fare mi hanno imposto, le ammazza, mica quella rimbambita dell'ultimo piano che non sarà alla finestra a ascoltare le scorreggi degli altri. Chiaro e tondo, ministro, la vedi veramente c'è ragione anche lei, e lo so che c'è ragione, e non me ne dica più di queste cose. Questo gioco è perché vive e non ti lascia vivere, come hai messo di voglio vivere noi che sta sempre bussando il muro? Fatto dove ti dica, io ho abitato giù in via Calalverso, lì va bene i muri erano grossi, eppure si permettevano dal palazzo a fianco, figurati lì sono muri da 40, che le bambine in quella camera loro si accendevano oltre e li disturbavano. Allora io cosa ho fatto? Ho preso gli altoparlanti dello stereo delle bambine e li ho messi in quel muro, e con questo anche ti ho consigliato quello. Non li ho più sentiti. Cavolo di loro. Vabbè. Sono che sto qui, se non c'è la mamma a forte. È un'altra carata bellissima, una forma che gli aveva una bella. L'antenna tanto non ce l'aveva, ormai ce l'hai, avete cambiato le antenne, amplificatori e tutto, cosa mette fino a un qualche cosa. Guarda che con le firme devono andare tutti singolarmente, andare lì alla polizia, dall'estero e firmare persona per persona e fare la denuncia, se no non succede niente, non preoccuparti. Devono andare ogni persona, contate i documenti e fare la denuncia. Io sto in casa, l'indirizzo e via, c'è questo signore che mi disturba. Ma singolarmente, devono andare tutti, non valgono queste lettere, cosa è questa cosa? Cos'è la banda bassotti? Ma non fa niente perché con lui non sono d'accordo, perché a chi da detto gli hanno detto che non, io non disturbavo tutti. Insieme a me mi disturba con le luci, non mi fa dormire. E io le dici a me, sì, no, io vabbè, io sono stato al conto mio, però per il fatto che, come ti ho detto prima, figlio unico, non ho mai avuto disfigurimenti né niente da nessuno. Dunque mi sono sempre comportato con la mia testa. E ti ripeto, qua adesso sono in campagna, l'ho comprato qua e ho costruito tante saluti, non mi disturba più nessuno. Però ti dico sinceramente, quando anche i cani ogni tanto sono la rete e sono vanno al cancello vicino. E il tuo cane, ascolti, il tuo cane dov'è? E il mio cancello che abbaia, allora te lo porti a casa, così vedrai che neanche il mio abbaia. E risolta la situazione subito, però proprio abbiamo un cancello davanti all'altro, il cane è grosso, salta 3 metri a gambe pari, a tappe pari, se voglio anche se riesco a tenerlo fermo. E questa è la solita cagnetta, sempre il calore, mi sono uscita e sono cattivo. E cosa si posso fare? Non lo posso legare. Poi no, non mi piace tenere i cani legati a me. Se aiutano loro, se ritengono loro più. Allora. Già, prima. Insomma, io penso una cosa, io desidero la casa in campagna, non mi desideri quello lì, no. Anche per stare tranquillo. Ma non vorrei che tranquillizzano, ma in campagna venne. Siamo alla seminata, questo qui si è messo a gridare, ma mi la passate di voi, sì o no, dalla campagna vicino. E tu cosa hai visto? Noi stavamo a Rotterdam cantando canzoni sociali, suonando la chitarra, no? Tutti in breve. E non gliel'avevo visto, niente l'avevo visto, stavo una cosa grande, l'avevo continuato, era l'ora di notte, però la brindata. Che canta, si chiude le finestre. E se li fate vuole al caldo, ma almeno muore lui solo. Cos'è questa storia? Ah, ma il volume sia, tanto ci sono queste cose. Comunque la fate da fare periodo di agosto. Se non era Ferragosto era nel Berlino. Siamo scesi in campagna, abbiamo buscato 7 kg di vino. E un po' di pancetta, siamo andati a rostire tutti quanti con lui, ci siamo stati mangiando. Ce l'avevamo fatto da buttare quindi roba, c'è la carne di cavallo, di mio, non so quella roba lì, no, con la papalla, e mentre si arrostiva si cantava, no? Niente di cose, solo cose qui si è cerato, mamma mia, ma sei di morti, io no, che mi trombino. E appunto, c'è ragione, come ho detto, ma qua oggi non ci intendiamo con i nomi, vabbè. appunto questo di lasciarlo perdere, si chiude le finestre, cosa vogliamo dire? Se la leccate poi in campagna con 100 metri di distanza da l'altro, cosa c'è da rompere le scatole? Diciamo, per logica ho pensato così, ma purtroppo la legge di Ohm non dice così. Tu fai come ti ho detto io, trova 12 volt per 10 ampere, poi moltiplica il risultato per un'ora al giorno, per un'ora, poi fai il conto di 10-12 ore al giorno, poi moltiplica il tutto per 30 giorni e vedrai il conto che ti esce. Li lascerò fare, se li facciamo fare anche quello, anzi dovrebbe servirli, visto che vuol diventare un radioamatore anche lui, la legge di Ohm deve conoscere la menavizio. Il consumo se di 10 ampere e di 10 ampere. Un consumato per 10 ampere ogni ora, per 12 ore al giorno, per 30 giorni al mese, fatevi i conti. Quello che li mangia, se non ne mangia 10 poi mangia 8 e lì siamo messi. Sempre a 220 va attaccato, perché va l'alimentatore e lo va alimentico a 220 e poi riduci a 12 volt, perché l'apparecchio va a 12 volt, sempre da 220 parti, che si consuma il trasformatore, si rende 3 ampere, 2 ampere e tu li consumi tutti, è sempre una lampadina da 25 watt che viene a te. Mauro, scusa, no, dipende, ho detto, da parecchio a parecchio, perché ci sono baracchini che ti assorbono per morire 2 ampere, ma ci sono certi apparecchi che ti assorbono anche 10, 12, 13, capito, se voglio dire. 220, quindi, per forza di cose deve essere così, e invece no. Avete parlato in 15, ti stavo dicendo che ci sono apparecchi che l'alimentatore e viene consumato anche di 10 ampere e lasciano lì tutto quello che vi siete sovramodulati. Ho detto, ma no, ci sono apparecchi che ti assorbono 2 ampere e ci sono apparecchi che ti assorbono anche 10 ampere, capito? Infatti io stavo dicendo a Gianni di fare 12 volte per 10 ampere e così fai il watt moltiplicati per 1, 12 ore al giorno per 30 giorni al mese. Allora lui che riesce il conto, poi mi dice quanto costa kilowatt e vedrai che il conto già lì è lo stesso, perché lui sottovalutava il fatto che era alimentato a 12 volt. Cavagava. Capitolo Gianni, capitolo? Capito Gianni, quanti soldi? Ma tutti e due l'avete fatto insieme, ha ricominciato dopo due volte, per l'ultimo momento. Allora, macchina, vedi, fai il conto della macchina. Nella macchina c'hai una lampadina 12 volt e c'è una batteria che ti dà 60 ampere. Quanto tempo la puoi lasciare accesa una sola lampadina e la batteria si scarica? Forse 3-4 ore. Allora, no, facciamo che sia, se ti duri di più, vai, magari anche tutta la notte. Però, come vedi, se la lampadina ti consuma 15 watt, 12 volt, i 60 ampere se li mangia, se li mangerà in 5 ore, in 6 ore. E sono 60 ampere che si ha mangiato per ogni. Se moltiplicato per 12, ti dà una cifra in watt e vedi quanto consuma. Basta. L'unica è non modulare, ma no, così non si consuma niente. No, guarda che io sono stato uno di quelli che smontava l'antenna di giorno e la piazzava di notte. No, adesso fra l'altro già, ti dico una cosa, io adesso una delle antenne che ho, l'ho fatto tipo passaggio a livello, metto un po' spesso, poi scende e la nascondo in mezzo all'erba. E dunque figurati se ne è rimasto il vizio di nascondere le antenne. Ma no, ti volevo chiedere una cosa, tu lo conosci Giovanni Secchi? Giovanni Secchi, di nome sì, ma giovane o alla mia taccia. Io di Secchi ti conoscevo quando stavano alla Magneti Marelli, lì in Casatuni. No, Giovanni Secchi, radio elettrotecnico, che ci aveva prima il laboratorio praticamente in via Valdetta, capito o no? Ah sì, che lo conosco, sta, pensiamo la vita che ti conosciamo. No, adesso il nome mi hai confuso, sì che ti conosciamo, e come no? Beh, tu a me non mi conosci. Sarà voi che ti dica, io non è che ci sono passato molto da Secchi, d'altronde io andavo dietro la Radio Marelli, lui andava dietro per conto suo, capito? È un altro servizio che abbiamo fatto, io ero sotto una vita per 25 anni, lui è un po', mi sembra che era da... non so se era da Breso o roba del genere, e poi si è messa conto suo ma da tanti anni, dunque ci siamo persi di vita parecchio, comunque la conosco lo stesso. E io ho lavorato con Giovanni Secchi per 4 anni. E mi serve dire per il periodo, io ormai manco già... comunque guarda, io sono quello che aveva il centro di assistenza della Roventa e della IMES in via Nunzio Cervi. Tu sei panci grande. Vabbè, ti sono dato da fare, sai, il riposo, il lavoro, poco preoccupazioni, perché quando prendevo un pezzo in mano lo riparavo la mente e lo consegnavo. Però mai ho avuto preoccupazioni, sarà per quello. Ma ho già ti conosco lì, all'aereo, per carità. Io ho lavorato con Cecchi dal 73, 83 cioè. Sì, io invece da solo ho cominciato a lavorare dal 70, 60, quasi non lo tanto, 69, dai. A noi la vita ha deciso che, siccome c'erano assistenze della IMES, della REC, c'era Sanussi, poi c'era la IMES, poi eccetera, dice io per mandare a riparare la roba, a farla riparare da loro, non ho più bisogno di assistenza. E dunque ci ha licenziato a tutti. Purtroppo per lui è stato un grande sbaglio, perché la clientela era abituata a noi, che andavi lì, signora, guardi, lavoratrice pergolata perché c'era pompa per terra, ti avevi messo di su e te ne andavi. Quando chiamava, dopo che ci siamo mancati noi, chiamava la IMIS, la REC, signora, la pompa per terra, 30.000 lire, dicevo? E certo, ma non la ci guadagnava ma noi quel campo lì. Adesso non lo so com'è la questione, perché io ripeto ci manco parecchi anni da quel campo lì. Adesso facendo tutto un altro campo di corso, praticamente elettromeccanica, e non ho più niente a che vedere con la radio elettrotecnica, capito? Tutto lì. Io corso praticamente elettromeccanico, ci sono 18 anni che faccio questo campo, tutto lì. Ho capito, no, io faccio... Dal primo festival di Sanremo io stavo già cambiando cordini negli apparecchi radio. Via Turritana, tutto volume, papà di papere. E non ce la fate voi, vabbè. E quello che ti dica. E dopo sono passato da Radio Murcia 5 anni. portato da lì, mi hanno prelevato, mi hanno portato da Lavario Marelli e io sono stato oltre 25. Poi quando mi hanno licenziato ho aperto il mio laboratorio e ho raggiunto la benedetta età di andare in pensione, tutto a posto, tempo 10 giorni, chiuso il laboratorio e io ero già in pensione. Ragazzi, ho remunerato tranquillo. Comunque ti posso dire una cosa, in tutti questi anni io sono uscito con le mutande e basta. Quando l'ho preso per conto mio, la prima cosa che ho fatto è comprare la campagna. Ho costruito la casa e sono a posto, e sono tutto da qua. Sono già 20 anni che ho costruito la casa, tutto a posto, tutto in ordine. In 15 anni ho fatto più che in 40 di servizio per gli altri. Non posso dirti altro. Tutto gonfio. Ma no, in definitiva sì. In definitiva è così, ma no, vedi cosa ci può fare. Ma va bene. Adesso praticamente quel laboratorio che c'avevi, che ce l'ha, chi l'ha preso lì? E allora, il dottore Pomponio, ti ho sentito. Cos'è anche tu gonfio sei? Purtroppo la vita è quella lì. No, quel laboratorio era di un pensionato che stava ad Alghero e io l'ho lasciato, mi hanno dato la buonuscita, comunque so che è morto ed è delle suore di un caso di riposo di Alghero. Poi so che c'era un signore che riparava i computer, però è andato in Olanda, mi sembra, e si è buttato da qualche grattacielo e non hanno più fatto più niente. Non mi hanno raccolto neanche i pezzi a quanto fare. Cavagnava, oi, buonasera a me, va ascoltato. Buonasera. Che l'ha fatto la fine quella buttarsi da grattacielo? Certo, non hanno trovato i pezzi, dunque non si sa più niente. Cosa si è buttato insieme al computer e hanno fatto un po' di confusione, no? È tipo culturalmente dice che era caduto un aereo, no? E avevano ritratto i corpi di quattro persone, però non si era aggiuntato e non l'hanno trovato. E direttamente c'è qualche confusione, qualche clavicola hanno messo a qualcuno dei piloti. Non si uscita ancora. Dimmi Antonè. A Franco, non è ancora uscito. Troppo Antonè, cosa è qua? Capito. Ma perché a casa? Io non sì, sono a casa. Gava. E è stata alle 4, devo salire lì da mio cognato. Ah, tuo cognato è quello. Ehi già. Sì, ti la conosco un giorno io. Da quando abito qua, anzi non la conosco neanche io, conosce Simona un bel tempo, prima di me. Gava, e sei conferma. Io abito vicino a me, già. Ho capito. Chiama di positivo, andiamo per la vela. Comunque già sapete dove andarsi, ecco io, se vi volete incontrare, pagarmi il bicchierino, il caffè, è sempre a disposizione. Ma non c'ho problemi, già lo sai, non problemi, quello è altro o no? Va bene, no perché io siccome vado a comprare la mia scuola, poi a volte esce alle 11, a volte esce a mezzogiorno e allora mi prendo il cagnolino, me ne faccio quattro passi, quattro chiacchiere con Giulio e poi vado a riprendere la bambina, dunque normalmente di mattina sono sempre lì, tutto qua, il caffè comunque lo pago io, non preoccupatevi, non fatevi di passare lontano per non pagare, già ve lo pago io. Non c'è questi problemi. Ciao ragazzi. Ok, avanti dottor Uno, scusate, addormentato ti sei. Guarda che io non ci casco nel dormito. Io ti dico addormentato. Ma non so addormentato, solo l'ascolto. Mi piace ascoltarli. Piccoli racconti antichi. Ho che cosa che ti dica. Avanti Antonello! Sempre sbagliato Gianni, beato lui. Lui lavora, se la fa, si fa le cimette, ma chi sta meglio di lui? Ciao dai, ho continuato, fisso, tranquillo, entra e esce. Io lavoravo 14 ore al giorno e se a mezzanotte c'era da fare un'antenna si faceva. Ah, questo non vi posso dire. Una volta uno dei ragazzi ha sbagliato strada, ha messo un piede nel trappolo e ci è stato sotto il letto di una coppia a mezzanotte. Figurati. Continua la lievitazione, Nils. Cavoslovacco in due. Mi scoppia. Ehi, dai, sì, non ti preoccupare. Ti hai già mangiato due, ti battono, no? Ma no, c'ho sette, porco buia. Ehi, vabbè, prendi un bicchierino d'acqua. Lascia il rum da parte, eh. E poi ti ha avanzato un bicchierino di cosa gli hai messo per profumare, cosa gli hai messo? Anice frambucca, molto arancio, buccia d'arancio e buccia di limone. Guarda, veramente buone sono uscite, veramente buone e buone. Allora mangiati uno spicchio di limone e vedi che ti passa subito la sette e non ti gonfi lo stomaco. Prova anche uno spicchio d'arancio, ti leva la sette immediatamente e non ti riempie lo stomaco d'acqua. Qua già, allora vedete, io ho sempre bevuto l'acqua, mi sentivo sempre un bel pesante, tutto il giorno pesante, veramente. Non so proprio una cosa, forse mai erano le frittelle, ma c'era l'acqua. Io sì, io gli dico, sai cosa ho fatto? Eh? La pancetta fritta. Panata? Sì. Buona, veramente buona, mi è piaciuta. Io... Tanto che ogni volta che mamma va per dire che compra il capocollo, no? Io so già. Non è cucinata... Sì, anche cucinata così è buona, normale. Però è più buona impanata, ti salta di più e veramente male in mezzo un bel sciricabu. Legate le antenne che sta arrivando un forte vento. Che è un volontario c'è a tenermi l'antenna? Mamma mia! Buonasera a tutti! A Cagliari hanno sospeso anche la partita per il forte vento, perché il vento è tabellone quando c'era lo stadio. Hanno dovuto sostenere la partita perché era impossibile giocare per il vento. Hanno fatto bene, benissimo. Come benissimo? Legate le antenne, perché se no ce le porta via tutte. La Roma ha perso con l'Ascoli 3-0. Pizzica. E c'è vedere, l'Udinese sta pareggiando. Stasera ci sono le grandi, Ehi, ancora non ha perso, dai, è il primo tempo solamente questo. C'è ancora tutto il secondo tempo. Comunque 3-0 sono tanti, Non è facile recuperarli. Davvero, Mirko. Aspetta, la Roma che ha fatto roba di 10 o 11 partite o 12 di seguito, sempre vincendo, adesso va a perdere ad Ascoli, 3-0. Ma poi già lo so che a te non te ne frega niente del calcio. Riprendi. No, ma io sono fatto così. Io, se c'è una cosa che non mi interessa, rispetto sempre le regole degli altri, per il modo di fare degli altri. Quindi, parlarne non mi pesa, ecco. Giulio, torna se 1-1 sta facendo. Ma torna se 1-1, va bene così. Ok, almeno per il momento. Se vince il video. Oh, ma no, ma te immagini, tu che sei nato qui. Preparati sotto gli alberi perché non si sa mai. Ti butta giù gli alberi il vento, ci arriva qua guai. Non preoccuparti, cosa vuoi di raccogliere le mie antenne? Ti va male, sono bene ancorate. E non c'hanno venti neanche le mie. E una già lo sai che posso collicarla col mignolo e rialzarla con altrettanta forza. Dunque, e scordate le mie antenne, non arrivano da te. Marco se vieni con la macchina. Beh, avanti questo brecchio così tutto pieno di rumori. Ciao Antonio. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Non mi sai? No, perché c'era una specie di cosa, di motore supersonico c'era. Bravo, ciao tu. Avanti a tu. Anche tu mantieni bene l'antenna perché sta arrivando un vento tremendo. Va bene così, no, stavo ascoltando la partita alla radio, no, adesso è finito il primo tempo per quello che sono anche in tanta frequenza. E addirittura la partita di Cagliari è stata sospesa per il forte vento, perché il vento allo stadio di vento tabelloni è quanto c'era, allora hanno dovuto sospendere perché era impossibile giocare, ti vuoi immaginare? Ma con il corra sei scena tu? Perché addirittura un tanto vento, no, ancora non ha senso, non penso di avere, non so se ce li ho, con uno c'è il soltaio. Ma perché hai detto che l'antenna non le hai, insomma, io ho detto una cavolata, si sta avvicinando con le corna. Ma lo so darsi. Davvero? Allora? Vabbè, sì, quando tu abitavi in basso. E allora, la stessa casa di mamma l'hai fatto tu, fino a questa pazienza. Ah, hai capito chi sei? Sono stato il buono. Ah, ho capito. Vabbè, tu fossi un ragazzino allora e non, io non mi ricordo di te. Capito, vabbè. Tua madre. Boh. Ah, sì, in quella piazzetta, eccetera, eccetera, così è. Le vicino alla chiesa, insomma, là. Ehi, mia nonna, che mia nonna era di Fragnano, il nonno si chiama Massano, Antonino. Sì, ma non me lo ricordo adesso, sono passati 25 anni, 30 anni, non lo so di preciso, grosso modo così. Insomma, dove c'era Andrea prima, là, nel stesso portone? Il portone a fianco, il portone prima, numero uno. Sì. Sì, allora sì, no, potevo ricordo benissimo, no, facciamo visto perché non sapevo neanche che di più. Ok. Va bene. Babbo, se ti ricorda qualcosa già lo sai. Dopo trovarmi, non ci sono problemi. Ciao, ma dai, che faccio ormai? No, perché la sua tonnella era murata, la sua tonnella io voglio mettere in contrattolai, così la sua recupera un po' di soldi che non le faccio a nove, ho passato di smettarla giù, c'è del lutto e la faccio a nove. Devo quindi andare in come, non ce la faccio mettere in niente. Ok, perché il contrattolai sicuramente è un lavoro più ben fatto, Non ci sono dubbi. Perché intanto perché il muratore li piazza e poi anche imbiancare se ne vanno, poi si penserà al falegname a piazzare le porte senza rovinare niente, invece in un altro modo se tu li dai a murare è un macello, devi intervenire poi sulle porte perché tutto si sporca, non si graffia, eccetera eccetera. Oggi il sistema del contrattolaio si adotta anche sulle finestre, perciò ti puoi immaginare è un lavoro più pulito sicuramente, guarda. E forse anche più conveniente perché il muratore vuole una cifra per piazzare ad esempio il contratelaio, invece il contratelaio probabilmente costa meno di quanto costa la manodopera per piazzare la finestra, non lo so, questo è da vedere comunque, non lo so proprio. Ad ogni modo non tutti ormai fanno quel sistema, contratelaio e via. Giù, il contratelaio me ne vengo in muro io, è andata la corte. Rivata qui in campagna, ma non venite, la compressione ce l'ho di attacco, li metto le vite ce l'ho di attacco. Tra un po' di tempo, come la cima, un po' di soldi, ha avuto la cassa, niente, io faccio fare la prima di questa roba per quello che ti rilampo. Certo, non ci sono problemi. Quello già è vero, e non rovini mai la casa, perché ne svitti e butti via e cambi, e sostituisci i posti, insomma, ecco. Sì, te lo consiglio anch'io, il contratelaio è una cosa molto, molto, molto migliore, ma molto migliore, non poco, molto, in tutti i sensi. Va bene, facciamo girare, dai, perché se no vogliono venire anche loro a aiutare poi a lavorare. Avanti già. Io non stavo così soffrendo. Già anch'io comunque mi sentito, sempre cercando di fare lavori, questa villa quando la finiamo. Ma che villa? La villa ce l'ho già. Ciao già. Ciao. La Cristi, fai qualche cosa così che cercavo di fare, capito? Già, giusto per stare in modo che poi dopo quando cambio le finestre non vado incontro a un po' di casino, capito? Quando cambio le finestre, non le finestre. Ebbene, giusto. E visto che c'è così. Ciao Cristian, come ti trovi là? Addio, benissimo. Fare, sono contento. Stavo proprio per cosa ci dici adesso? C'era anche lo zio, Fulmi, non ha fatto cosa della fata maggiore. Ma tu dici? È una settimana che sono così in fondo. Poi vabbè. Se ti piace, non va tutto bene, insomma. Benissimo, la gente è bravissima, si sa da Dio. Cappa cappa, andate, prendo così, dai. Avanti che è rimasto in bianco, Luca. Cappa qui, ma ovvero, stai bene? Si sta benissimo, Luca, poi è tranquillissimo. Ma lì c'è un po' di gente, però no. Ma c'è gente c'è lì, lì c'è molto, molto, molto, bello ragazzo. Magari ci fossi io lì, magari. Confesso. Non fermo, non confesso. Ma tu non ti fa vedere, guarda, tu mi sei con un nome. Ah, tu, sì, se ti c'è con un Milan, 34S. È un amico. È un amico. E magari tu uscirà. Sono a casa, prezzo di un Milan. Tappa. Che cazzo mi ha fatto via il parecchio mio, l'antenna mia, sta roba mia. Fatto bene, fare roba tua e tu e boh. Tutti di tutti e niente di nessuno. Scusate, io continuo a ascoltare la partita, dai. Adesso rimango in ascolto e comunque casomai ci sentiamo più tardi, là, dopo che finisce la partita. Comunque vi saluto tutti. Ma no, mi prendi, io rimango con quelli che si ascolta adesso, nel frattempo ascolto la partita. Vai, ma no. Ne approfitto per salutare anche io, se c'è qualche cosetta da fare. Va bene ragazzi, buona serata a tutti e mi raccomando Luca, le fettelle, una per volta e non bere acqua, se no il giudice si gonfia la pancia. Ciao, saluti a tutti, buona serata. Ciao, allora non ti preoccupare, un po' di acqua ho bevuta e va gonfiato, vaffanapoli. Non c'è problema, dai. Ciao Giulia, anche a te buona serata e buon ascolto. Alle prossime, avanti già. Forte cazzo, ma tutta me sono venuti i dolori, era morto, io me la fottivo, io mi ricordo che ci vuole la testa bagnata d'inverno, un freddo, non ci vuole la voglia, facevo la luce, la testa bagnata, tutta inzuppata di gelatina, i beri, tutti inzuppati, ci si vede morto Gianni, e poi qualcosa la sto risentendo, Così è cercato, di testa, forti, mi arrivano, ma forti, capogiro di tutto, soprattutto, come cavolo si chiama, non mi viene, ma no, si visita. L'ha fatta riuscire, ma che dai, non ci vuole lavorare, dove ti decidi subito? Perché innamorato? No, portami a casa, no, stiamo in piazzetta così. Gloria, per carità, andami in giro, andiamo in giro per carità, andiamo in giro. Sì, a me piace fare. No, ma adesso, i tempi sono finiti, Gloria. No, per me, sempre lo stesso. Mi piace uscire di notte, girare, fare, andare al vero. Sì, l'estate anche a me, ci giro pure io, tranquillamente. Ci vado, oh yeah, che dolore. Qua un sabato sono andato con vecchista da Alessio. Avendo delle lavate che sono delle belle donne. Siamo andati alla piazza dove c'è la piazza dove sono tutti quanti con la macarella e coso, di gente che lì, ecco, roba di ragazze belle c'era, qui c'è una discoteca, un lusso. Lì sì, ce ne sono belle signorine ora e parte. Lì, alla caletta, c'è la sorella di una signora che abita qua a Sassari, che dove lavorava mia madre tanti anni fa, è miliardaria quella. C'è gente lì che è più ricca, si vuole. Miliardaria, siamo un po' distrutti, ma è questi che è cani moscia, che non puoi nemmeno a dirlo. Ma c'è tutti così pure che hanno soldi. Ma qui gli ha studiato qua a Sassari, come ha detto è morto, gli ha lasciato tutto quello che aveva. Infatti, per me è il marito che è miliardaria lì. Che l'ha fatto? Oh, c'è Cristian, Franco è sparito, bu. Franco. E su Cristian è fantasma, non ti lo tradisco. Sono imbuttenti. Non è stato scompagno, non c'è uno che là. Pappa gappa. Che dolore, ragazzi, di cucine di capo. C'è un freddo, questa scala, per le bende. No, ma cosa no, ma cosa è caldo? Chiamate fermo sui fuori. Ehi, no, qua non c'è nulla. Oh, vabbè, io sono sempre fatto così, non fa niente qua, sempre. Però non mi deve mancare il ventilatore d'estate, sono guai. E io sono lì per mettermi le pompe in calore. Ma io ce l'avevo una tra le mani, a seconda mano quando stavo lavorando a mio nipote. Solo che dopo ho bisticciato e... Si è bisticciato, me ne sono andato. Perché lì le ore erano troppo, ci contavano al giorno. Entrava alle 7:30 l'urto e c'era l'urto di sera, alle 9. Ma che nanni! Cioè, quella volta riesce a fare lavoro? Praticamente sì. Cioè, con sabato e la domenica libero, boh. Ah, ti metto, c'è pure il sabato, sì. Aspettami allora, che ora? Sì, già vengo. Di plastica però. Vabbè. Boh, che soldi c'erano, eh? Raga, ogni settimana, track, 250 euro. Puliti. Pulizia. 2,50 K. Alla settimana. Allora. Sì, non è che ci viene 100, 200. E non è che ti pagava anche così tanto. Mio nipote 120 prendeva. Allora operaio, faceva tutto. Allora ci organizzava lavoro, dovete fare questo e quest'altro. Ci metteva e facevo guarnizioni. Mi portavo tutti i film di ferri, scala, quando c'era bisogno della scala, tutta la borsa di ferri pisava il gas, già meno di 50 kg, mio, tutta piena di ferri dentro. E poi tubi, rame, guarda, di tutto di più. Io ti sento adesso che mi arrivano un po' di lumi, che mi sto addormentando, se poi magari ti metti a parlare e non ti rispondo più perché sei un drumito. Anche se mi sta correndo, mi facevo il suo bambino qui, magari per la stasera. Ci sentiamo. Ciao Giaccia, alla prossima. Anche adesso un po' un'oretta mi ci sdraio. Ciao a tutti, ciao Cristiano, ma se te mi fare, ciao.